Roberto Fabri. Bentornati in questo sabato 8 novembre qui sulle frequenze di Blu Radio, sempre con House Made. Noi siamo pronti a iniziare una nuova super puntata all'insegna della musica elettronica, ma una news su tutte ve la devo dire, o meglio quella della nuova applicazione che sarà disponibile prossimamente in tutti i digital store, ovviamente in versione gratuita, quindi potete portarci in giro se dovete partire, andare alle Seychelles, alle Maldive, a fare la vacanza. Potete ascoltarci, basta avere la connessione internet, quindi scaricatevi la nuova applicazione di House Made. Andiamo avanti, il primo disco di questa sera, siamo pronti a iniziare con Dynamite, il remix di Walden. Questo è Cristina Novelli e Gareth Hermy, qui su Blu Radio. Indigo, il primo disco di questa sera è intitolato Dynamite, qui sulle frequenze di Blu Radio, precisamente con House Made. Il prossimo disco, direttamente dall'America, arriva Chucky con Chronic Crank. Questo è Vamonos. Chucky, questo disco super super tamarro, ma vabbè, lo conosciamo tutti, è un artista internazionale che produce EDM e penso che non abbandonerà mai questo filone. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Prossimo disco, Enzo Darren con So-K. Alzate il volume, sempre qui, restate con noi in nostra compagnia. Questa è House Made. We'll be right back. complimenti anche a Enzo Darren per questa sua produzione. E ora torniamo con un ragazzo che abbiamo sentito anche nella puntata di ieri con una sua edit. Lui è Gui Pires con Rigno. Questa è Housemaid. Con questa nuova produzione. Il prossimo è uno stile un po' più progressive, quindi è un po' più tranquillo. Lui è Kulainets con Pegasus. Sulle frequenze di Blue Radio siamo sempre qui. Io vi ricordo anche di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook per stare aggiornati con tutte le novità. È in arrivo il disco di Kulainets. Restate con noi, in nostra compagnia, qui con Alberto Fabris, con Blue Radio e con Housemaid. Bene, bene, bene, andiamo avanti con il prossimo disco, senza perdere neanche un secondo. La prossima canzone è intitolata Aero Games e l'hanno fatta i New Id. State qui con noi, nostra compagnia, sempre sulle frequenze di Blu Radio, e non lasciateci perché noi abbiamo bisogno di voi. Io vi ricordo che se avete da consigliarci alcuni dischi basta farlo tramite email oppure direttamente sulla pagina Facebook, basta mandarci un messaggio e i vostri dischi potranno essere messi in programmazione. Restate con noi allora, io vi lascio la musica e questa è Blu Radio, o meglio ancora House Made. Canzone quella degli New Id, Aero Games, e ora ne arrivo un'altra canzone. Abbiamo lasciato il filone EDM per tornare a quello un po' più da club, un po' più tranquillo, anche se veramente molto bello. Loro sono i Jax con Crambit. Restate qui con noi, nostra compagnia, sempre sulle frequenze di Blu Radio e sempre con House Made. siete pronti? Quindi dai, fate una cosa, alzate ancora di più il volume. Jags con i suoni un po' acidi, questo era Krembit. Prossimo disco, David Thorpe e Abel Ramos con Getting Heavy, qui su Blu Radio, precisamente con Housemaid. Vi ricordo che tra qualche giorno, o meglio, non so dirti di preciso quando, ma sarà disponibile la nuova applicazione e quindi potete ascoltarci da Dubai ad Arona, dalle Seychelles a Dormelletto, da... Non so dirvi, da New York a Domodossola, da Miami a Borgo Manero. Quindi ci sentiamo questo disco. Housemaid. Blu Radio. Ah, da Ibiza ad Angera. I'm rolling down the hill, but I don't give a fuck. You feel it carrying, getting heavy. It's not moving, let's go already. Lights down, be stuck. I'm rolling down the hill, but I don't give a fuck. Getting heavy, feel it carrying, getting heavy, feel it carrying, getting heavy, feel it carrying, getting heavy, feel it carrying. Lights down, lights down, lights down. Down. Disco anche quello dei David Thorpe e Abel Ramos con Getting Heavy qui su Blu Radio. Prima ovviamente stavo facendo un po' lo scemo dicendo che potete ascoltarci da Ibiza a Dangero, ma è vero, ovunque ormai. Prossimo disco, mega mashupone di Tom Jung con Come On Let's Get Wild. Lo state ascoltando qui su Blu Radio, precisamente su Housemaid, in questo sabato 8 novembre. Super mashupone di Tom Jung, passiamo a un altro disco, i D.O.D. con Do Your Thing. Restate qui con noi in nostra compagnia, Blu Radio. We'll be right back. you do your thing. Vabbè ragazzi, loro sono madrelingua, eh. Non so che dicono il titolo meglio di me, ma io non ci posso fare niente. Questi erano i D.O.D. con Do Your Things, qui su Blu Radio, precisamente con Housemaid. Prossimo è un discone, Tom Swan con Ruby. Il titolo è Savior. State qui con noi, con Housemaid su Blu Radio, perché andiamo avanti fino a mezzanotte. Abbiamo ancora tanta musica da farvi ascoltare. Restate connessi con noi. Godetevi questo disco. We'll be right back. Bel disco questo, complimenti a Thomas One featuring Ruby con Xavier. E ora ne arriva un disco che ha fatto un successo incredibile in questi ultimi mesi. Lui è Tujamo, il mago delle canzoni da club, con Hey Mister in arrivo qui su Housemade. Quindi questo, se volete ballarlo, se state facendo qualsiasi cosa, se siete in macchina alzate il volume, se siete a casa alzate lo stereo e ballate questo disco. Ok, Tujamo, bel disco quello di Hey Mister, complimenti perché io l'ho suonato tanto e funziona sempre, funziona ancora oggi. Lo sentite già in sottofondo, eh? Il loro ritmo inconfondibile, questa è una delle la loro prima canzone, il loro primo successo che li ha lanciati nel mondo, ora sono dei top DJ a livello internazionale, loro sono italiani, sono i Vinai e questa è Hands Up. Questa diciamo che è la loro canzone, è la prima canzone che li ha portati verso appunto questo mondo incredibile. E ve la faccio ascoltare qui su Housemade in ricordo, o meglio in loro onore, di come sono partiti questi duo di ragazzi, o meglio di due fratelli bresciani. sempre in Italia, perché in arrivo anche un altro duo di ragazzi milanesi che a me piacciono veramente tanto tanto tanto tanto. Meritano veramente tanto anche il successo che stanno riscontrando piano piano, ma il loro stile è unico. E anche per loro questo è il disco che li ha lanciati. Il titolo si chiama Tundra e loro sono Merck & Cremont. Restate qui con noi, sempre in nostra compagnia, sulle frequenze di Bro Radio. Questa è House Made. Bravi anche i ragazzi milanesi Merck & Cremont con Tundra. E ora passiamo a un super classico della musica house. E in arrivo Eric Price con Piano qui su Blu Radio. Chiudiamo in grande stile questo sabato 8 novembre. Quindi non mi resta altro che lasciarvi con questo ultimo disco. Non vi dico niente perché lo conoscete tutti e non c'è nulla da dire di questo disco. Questa è House Made. chiudiamo con Eric Price questo sabato 8 novembre sulle frequenze di Blu Radio. Noi di Housemaid vi ringraziamo veramente tanto per l'ascolto e ci sentiamo la settimana prossima. Vi auguro una buona serata e da Alberto Fabris è tutto. Ciao!